Buona serata e ben ritrovati, Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Continuano i nostri spazi dedicati ad eventi e incontri che si sono svolti nel periodo recente, abbastanza recente, nella città di Padova e nel territorio della diocesi. Torniamo oggi al 26 novembre a Aula Magna della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, il convegno Open Field FISP. È il tradizionale appuntamento che intreccia la riflessione della FISP, la scuola di formazione, l'impegno sociale e politico della diocesi di Padova e delle principali aggregazioni laicali, l'Azione Cattolica, la GESCI, ACLI, CSI e Noi Associazione. Un vero e proprio campo aperto sui temi più rilevanti della vita sociale e politica a tutti i livelli. Uno sguardo sull'Europa, la situazione nazionale, il contesto più vicino e a portata di mano. È stata anche in questa occasione, recente di novembre, un'occasione per riflettere e ricevere spunti di valori, ma anche opportunità pratiche per entrare nei temi e individuare piste di lavoro. Il tema scelto per l'ultima edizione di Open Field, di generazione in generazione, costruire la città futura. Al centro del dibattito il rapporto tra generazioni nell'ottica della progressiva e costante costruzione della città futura, la casa comune di cui parla la Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, l'ambiente in tutti i sensi in cui vivere, crescere, produrre, nascere, morire, da custodire e curare costantemente, perché è una sorta di testimone appunto che si passa e si dona tra generazioni. Alla luce di questo molti sono i segnali di preoccupazione. Il piano demografico, proprio stamattina si parlava sui quotidiani di Padova dello spopolamento della città rispetto ai dati del 1980, ma poi ci sono questioni sociali, economiche, ecologiche, ambientali. Open Field si è interrogata su questo tema facendolo con due interventi che vi riproponiamo. Innanzitutto sentiamo Tito Boeri, docente di economia e presidente dell'INPS, a cui è stata chiesta una lettura complessiva sul nostro paese partendo proprio dalla sua esperienza, dal suo osservatorio così specifico. Io vi sono particolarmente grato di questo invito perché il tema che affrontate, che avete dato come titolo a questo convegno, è un tema davvero molto importante per il nostro Paese. È un problema non solo di generazioni che si succedono l'una all'altra, ma anche di generazioni che coesistono e interagiscono tra di loro. Molti dei problemi del nostro Paese sono legati al fatto che queste interazioni non sempre avvengono nel modo giusto e quindi rischiano di creare delle tensioni, dei potenziali conflitti. E molte delle cose che cercherò di dirvi e poi sulle quali magari appunto avviamo con una discussione sono più legate al modo con cui è possibile evitare questo conflitto e creare dei rapporti, delle sinergie che siano tali da valorizzare il ruolo di generazioni diverse. Credo che sia opportuno comunque partire da ricostruire quello che è stato il cammino di generazioni diverse. Allora ho voluto riprendervi l'esempio di due generazioni. La prima, quella di Paolo, nato nel 1950, la seconda, quella di Federica, nata nel 1980. Se noi pensiamo alla vita di Paolo, Paolo nato nel 1950 si trova a fare il percorso di studi, lo fa in parte nelle avvisaglie del 68, lo termina diciamo quindi avendo vissuto parte di quegli anni in cui tutto sommato, devo dire, io ho vissuto un po' dopo di lui, quindi conosco un po' la situazione, non era così difficile fare l'università, devo dire, c'erano molti esami di gruppo, insomma il peso, la fatica di terminare gli studi all'università era senz'altro minore di quella che oggi, le sfide che devono oggi sostenere gli studenti universitari in Italia. Quindi termina il suo corso di studi, si laurea in economia, prende un voto di 100, che non è il massimo dei voti, ma comunque un voto discreto, si affaccia al mercato del lavoro, trova immediatamente un lavoro, senza difficoltà. La disoccupazione giovanile in quel periodo, nel 77, quando lui inizia a lavorare, è attorno al poco sopra il 10%, e trova subito un contratto di lavoro a tempo indeterminato che poi avrà per il resto della sua vita lavorativa. Il debito pubblico quando lui inizia a lavorare è relativamente basso, attorno al 60%, crescerà molto negli anni successivi. Negli anni 80 c'è il boom del debito pubblico in Italia, raddoppia, passa dal 60 al 120% del reddito nazionale. Cresce in quegli anni però per fare delle cose che tutto sommato sono favorevoli alla generazione di Paolo, perché vengono creati molti impieghi pubblici, un posto di lavoro su 5 in quell'epoca è nel settore pubblico, quindi sono coetanei di Paolo che trovano lavoro nel settore pubblico, e poi servono quei soldi pubblici per pagare trattamenti pensionistici privilegiati. Sono gli anni in cui si permettono le baby pensioni, i prepensionamenti, si concede alle persone di andare in pensioni relativamente presto. In effetti di questi regimi ne beneficia anche Paolo, che riesce ad andare in pensione all'età di 60 anni con una pensione che comunque è pari al 90% del suo ultimo reddito, quindi una pensione che in qualche modo gli restituisce grossa parte del potere d'acquisto che aveva nel corso della sua vita. Questa è la vita di Paolo, una vita tutto sommato relativamente, se comparata a quella delle generazioni che l'hanno preceduto, le generazioni che hanno vissuto la guerra, chiaramente una vita sicuramente molto più agiata di quella delle generazioni che l'hanno preceduto, ma ahimè una vita più agiata, anche più facile per molti aspetti, di quelle delle generazioni che verranno dopo. Federica in effetti ha una storia diversa. Lei fa esattamente lo stesso percorso scolastico di Paolo, anche lei economia all'università, si laurea anche lei con 100. Eppure, nonostante abbia esattamente le stesse, lo stesso curriculum di Paolo, si trova in una situazione molto più difficile. Ha la sfortuna di entrare nel mercato del lavoro nel 2008, quando il reddito pro capite, invece di crescere al tasso del 6%, come nel caso di Paolo quando ha iniziato a lavorare, decresce del 7%, perché siamo nel mezzo della grande recessione. Il debito pubblico, quando Federica inizia a lavorare, è al 120% del reddito nazionale. Questo significa pagare tasse più alte su ogni reddito ed essere in una situazione di grandissima fragilità. Federica ha fatto economia, quindi sa cosa vuol dire lo spread, ma è un termine che molte famiglie italiane non conoscevano prima di quella drammatica crisi, e vive come un incubo. Purtroppo lo stiamo vivendo anche in questi giorni, perché stiamo tornando a parlare dello spread che tende ad aumentarsi, questo fatto che insomma siamo in una situazione di grande fragilità, per cui non appena i tassi di interesse sui nostri titoli tendono a salire, una grossa componente della spesa pubblica deve andare soltanto a pagare interessi sul nostro debito, anziché, non so, pagare trasferimenti sociali, aiuto e sostegno alle famiglie o anche posti di lavoro nel settore pubblico. E in effetti quel debito pubblico è salito non per favorire la generazione di Federica, ma per favorire generazioni precedenti. E Federica sta già iniziando a lavorare, poi alla fine trova un lavoro, lo trova, è un lavoro precario, sono lavori inizialmente Cococò, Cocopro, Aspa, tutte queste sigle. Alla fine riesce finalmente a trovare dopo 5 anni anche un lavoro a tempo indeterminato, sa già che comunque la sua pensione sarà nettamente inferiore a quella di Paolo, anche in rapporto all'ultima retribuzione. Lei avrà una retribuzione più bassa di quella di Paolo e la pensione in rapporto all'ultima retribuzione sarà più bassa di quella di Paolo. Non solo, ma lei dovrà andare in pensione a 70 anni, se non a 72 anni, se poi avrà anche delle interruzioni nella sua carriera, come spesso succede alle donne, rischia di andare in pensione addirittura a 72 anni. Ecco, questi due esempi di queste due generazioni credo che diano proprio il problema cruciale del nostro paese. In genere si pensa che le generazioni, una dopo l'altra, in un paese che è un'economia avanzata, il passaggio tra generazioni diverse sia associato ad un miglioramento delle condizioni di vita, alle prospettive, ai piani, ai progetti individuali. Nel nostro paese noi abbiamo assistito invece ad un'inversione, per cui certamente Paolo stava molto meglio delle generazioni che l'hanno preceduto, ma Federica oggi ha delle prospettive senz'altro che appaiono molto meno favorevoli di quelle delle generazioni precedenti, della generazione di Paolo. Quindi c'è in Italia una grande questione giovanile. Può sembrare strano che il presidente dell'INPS parli di una questione giovanile, si pensa sempre che l'INPS sia un problema di anziani, di persone di una certa età. In effetti mi succede quando cammino per strada di trovare persone che sono oltre i 60, come dicono, presto diventeremo suoi clienti. Ma io dico, ma guardate, voi siete già dei clienti dell'INPS, perché voi è da anni che versate i contributi all'INPS. Non solo, ma l'INPS è cliente di proprio molto prima, non lo so, noi paghiamo i bonus bebè, noi paghiamo le indennità di maternità, noi seguiamo le persone nei primi passi della vita lavorativa, li assistiamo quando prendono dei sussidi di disoccupazione, quando gli diamo la NASPI, tutti i trattamenti di sostegno al reddito, sono prestazioni che vengono erogate dall'INPS, quindi siamo un'organizzazione che segue le persone durante l'intero arco della vita lavorativa, e quindi noi dobbiamo preoccuparci anche dei giovani, anche perché chiaramente il sistema, e anche se ci riduciamo soltanto al sistema pensionistico, il sistema pensionistico si regge su un patto intergenerazionale. Questo patto intergenerazionale dipende moltissimo dalle sorti dei giovani all'interno del nostro paese. Forse dovremmo magari ribattizzare, dovremmo cambiare, tenere l'acronimo INPS, ma chiamarlo Istituto Nazionale di Protezione Sociale, per dare l'idea del fatto che fa tante altre cose oltre semplicemente alla previdenza. Quindi c'è una grande questione giovanile, e penso che sia giusto che il Presidente INPS parli delle questioni giovanili nel nostro Paese. Ne parli nel senso di denunciare il problema e poi di cercare di trovare delle soluzioni, che siano delle soluzioni che evitino il conflitto generazionale, che perché c'è la possibilità di trovare una soluzione che vada bene per tutti, per i giovani e per le generazioni che sono vicine oggi alla pensione o le generazioni che oggi sono in pensione. Allora io passerò un po' di tempo, diciamo i primi 15 minuti, a descrivervi il problema del disagio giovanile su due dimensioni principali. La prima è quella del mercato del lavoro, una dimensione nota, ma è utile comunque richiamare i termini della questione, credo, disoccupazione, salari, formazione sul posto di lavoro, e del disagio economico. Forse questa è un po' meno nota, perché i dati sulla povertà in Italia sono meno discussi, c'è proprio un deficit profondo di informazione sulle dimensioni e l'entità della povertà nel nostro paese, quindi dirò alcune cose su questo aspetto, e chiaramente, dato il tema del convegno, mi soffermerò soprattutto sugli aspetti generazionali, cioè le differenze tra età diverse nei profili della povertà, nell'evoluzione della povertà durante questa crisi interminabile. E infine dirò alcune cose su cosa si può fare per cercare di affrontare questa problematica, la questione giovanile, cercare di trovare delle soluzioni e ricomporre quella che altrimenti rischia di essere una frattura, una cesura o addirittura un conflitto intergenerazionale. Non soltanto in termini di proposte, ma anche di proposte che tengano conto del vincolo politico. Noi abbiamo dei governi fatti di politici che vogliono farsi rieleggere, che si preoccupano della loro rielezione e che guardano chiaramente agli interessi di coloro che determinano l'esito elettorale, cioè il cosiddetto elettore mediano, quello che è collocato esattamente a metà. Se noi ordiniamo gli elettori in base alla loro età, quell'elettore mediano è quello che è a metà in questa distribuzione per età della popolazione di coloro che votano, ed è tipicamente la persona verso cui tendono tutte le piattaforme elettorali a concentrarsi. Ecco, ci sono delle buone ragioni, credo una classe politica che ha visioni per il futuro è in grado di spiegare anche all'elettore mediano che senza affrontare la questione giovanile anche il problema, la situazione, gli interessi dell'elettore mediano non vengono in nessun modo tutelati. Quindi c'è bisogno di guardare ai giovani anche per tutelare l'elettore mediano. Questo sarà l'ultimo messaggio che cercherò di dare oggi, poi spero che avremo tempo per la discussione. Dicevo prima che quando Paolo è entrato nel mercato del lavoro la disoccupazione giovanile in Italia era di poco superiore al 10%. Bene, poi è salita, noi non abbiamo avuto prima del 2008 mai la disoccupazione giovanile sopra il 35% in Italia. Invece, come sapete, negli ultimi anni, dopo la grande recessione, è salita anche sopra il 40%, adesso è discesa. Tuttavia c'è un dato che caratterizza il nostro paese e che è riassunto in questo grafico, cioè il fatto che c'è molta più concentrazione, oltre al livello della disoccupazione. Noi abbiamo paesi in Europa, che per esempio la Spagna, che ha conosciuto tassi di disoccupazione giovanile addirittura superiori al nostro, ma l'Italia è un paese particolare in quanto c'è proprio molta più concentrazione della disoccupazione tra i giovani che nelle altre fasce di età. Questo grafico vi fa vedere il rapporto tra la disoccupazione giovanile e la disoccupazione negli altri gruppi di età. Vedete quanto sia più sfavorevole la condizione dei giovani rispetto agli altri, alle altre fasce di età in quanto a disoccupazione. Tre volte, insomma, quella degli altri, più di tre volte quello per gli altri gruppi di età. In altri paesi è una volta e mezzo, due volte, ecco, non si raggiunge mai una sproporzione così forte nell'incidenza della disoccupazione. Quindi questo credo che sia molto eloquente di un problema giovanile, di un accanimento del problema della disoccupazione sui giovani, nonostante tra l'altro i giovani siano spesso la componente più istruita della popolazione italiana, sono mediamente più istruiti certamente delle persone che già lavorano all'interno del nostro paese, e c'è moltissima evidenza del fatto che le persone più istruite abbiano delle prospettive occupazionali più favorevoli delle persone che hanno un livello di istruzione inferiore. La laurea è tipicamente associata con una situazione sul mercato del lavoro più forte di chi ha soltanto per esempio un diploma di scuola secondaria. Secondo aspetto che vorrei segnalarvi è il fatto che l'ingresso nel mercato del lavoro tende ad avvenire partendo in condizioni peggiori di chi è già all'interno del mercato del lavoro. Questo grafico vi fa vedere il reddito relativo dei trentenni, quindi sono persone che hanno già qualche anno di esperienza nel mercato del lavoro, rispetto al reddito medio. Questo è principalmente reddito da lavoro. Vedete che quando Paolo ha iniziato a lavorare nel 77 ha iniziato con un reddito che era superiore al reddito medio. In effetti Paolo era più istruito della media dei lavoratori e ha iniziato a 30 anni, aveva già un reddito che era il 110% di quello medio, quindi è partito già al di sopra del livello medio. Col passare degli anni le persone che sono entrate nel mercato del lavoro in Italia hanno vieppiù visto un ingresso che tendeva ad avvicinarsi al reddito medio, vedete questa linea rossa, il reddito medio passi a 100%, e dal 90 in poi si entra, diciamo, nel mercato del lavoro, e anche a 30 anni si ha un reddito inferiore a quello medio. Questa è l'idea di un paese che sta perdendo, sta in qualche modo, non sta più andando avanti. Le generazioni, invece che migliorare nella loro situazione economica, tendono a partire da situazioni peggiori. E in effetti noi abbiamo nel 2010 meno del 90%, il reddito medio, quindi Federica, persona come Federica entra nel mercato del lavoro partendo subito in una posizione più bassa del reddito medio, nonostante anche loro abbiano un livello di istruzione più elevato della media di coloro che sono già all'interno del mercato del lavoro. Voi mi dite, vabbè, insomma, tutto sommato, questo è anche un discorso che si fa comunemente, i giovani però hanno tutto il tempo durante la vita di recuperare questo gap, questo ritardo iniziale. Purtroppo non è tanto così. Questo è un grafico forse difficile da leggere, quindi ve lo spiego con un attimo di attenzione. Questo è un lavoro che stanno facendo, tra l'altro ve lo dico se ci sono anche degli studenti universitari tra di voi, perché da un anno a questa parte noi abbiamo un programma all'INPS che si chiama Visit INPS. È un programma con cui noi accogliamo i migliori ricercatori su temi diversi delle università di tutto il mondo, che vengono da noi, li selezioniamo in base alla qualità dei progetti che presentano e possono lavorare sugli archivi dell'INPS. Gli archivi dell'INPS sono delle banche dati molto interessanti e in gran parte inutilizzate, perché noi abbiamo i dati proprio sulla vita lavorativa delle persone. e quindi possiamo ricostruire proprio l'intera vita lavorativa delle persone e abbiamo un sacco di informazioni su di loro. Bene, due di questi ricercatori, Paolo Pinotti e Fabiano Schivardi, hanno ricostruito proprio le carriere lavorative di generazioni diverse, dal 90 al 2011, come vedete in questo grafico. Questa linea rossa vi fa vedere il salario d'ingresso, il primo salario che queste persone hanno avuto. Vedete, nel 1990 il primo salario era attorno ai 400 euro alla settimana, questi sono settimanali, poi è sceso gradualmente, adesso siamo attorno ai 300 euro, questo è un ulteriore esempio di quello che vi dicevo prima, il salario di ingresso che si abbassa. Queste invece linee che vanno qui vi fanno vedere cosa succede a queste persone poi dopo l'ingresso nel mercato del lavoro, negli anni successivi, diciamo che sono i loro salari durante la vita lavorativa. Come vedete, in Italia tipicamente c'è un profilo crescente dei salari nel corso della vita lavorativa, lo sappiamo, si matura anzianità aziendale, i salari tendono a migliorare, c'è un progresso e in questo caso vedete che si arriva fino a 600 euro a settimana, quindi attorno ai 2.400 al mese, quindi voi mi dite, appunto, qui si inizia con un salario più basso e si avrebbe la possibilità di migliorare. In realtà non è così, vedete che queste linee che vi fanno vedere i salari durante la vita lavorativa sono delle linee che sono parallele l'una all'altra, quindi se uno parte in una posizione più bassa all'inizio non recupera più quello svantaggio iniziale, non è vero che i giovani che oggi partono al 90% del reddito medio poi durante la vita lavorativa riusciranno a recuperare questo ritardo iniziale, a superare, no, perché come vedete si tende a replicare quello che è avvenuto prima dal punto di vista del progresso salariale e quindi se si parte sotto non si recupera più questo svantaggio iniziale e le donne che partono da posizioni ancora inferiori a quelle degli uomini si trovano chiaramente a vivere questo problema in un'intensità ancora maggiore, quindi non c'è recupero, quando si parte male questo ritardo tende ad accumularsi nel corso del tempo. Ecco, un modo con cui si potrebbe recuperare il ritardo dei giovani e si potrebbe dare loro maggiori prospettive è quello di acquisire più capitale umano nell'attività che svolgono. Il capitale umano, che è il grande fattore di successo oggi nel mercato del lavoro ed è quello che permette anche alle persone di guadagnare di più nel corso del tempo, di rendersi anche difficilmente sostituibili da parte del datore di lavoro, per cui si diventa meno vulnerabili a delle crisi aziendali, a dei problemi, è il capitale umano, cioè le conoscenze di cui uno dispone, soprattutto le conoscenze specifiche al mestiere che si è imparato, su cui ci si è cimentati. Ecco, la cosa preoccupante del nostro paese è che noi avevamo un paese in cui si faceva molta formazione sul posto di lavoro e quindi al di là della, diciamo, formazione che uno riceveva nell'istruzione formale a scuola e in università, uno entrava nel mercato del lavoro e imparava tantissime cose, imparava mestieri, competenze, questo è un bene molto prezioso. Io credo che la tutela più forte che c'è contro il rischio di licenziamento sia in queste conoscenze, perché uno diventa poco sostituibile. Se un datore di lavoro ti ha trasferito delle conoscenze importanti, tu hai imparato, c'è un processo di apprendimento che richiede un certo tempo, ecco, il datore di lavoro prima di privarsi di un lavoratore che è così bravo, insomma, che ha conosciuto, che sa fare tutte queste cose e prendere qualcuno che magari è disposto a lavorare ad un salario più basso nel mercato del lavoro, però non sa, non ha quelle competenze, ci penserà non una ma 10 volte. Un salario più alto è giustificato dal fatto che uno abbia una maggiore produttività e chi ha imparato questi mestieri è più produttivo, quindi per il datore di lavoro è meglio pagare un salario più alto per avere una persona più produttiva piuttosto che un salario più basso di una persona che è meno produttiva. Ecco, se però smettiamo di fare formazione sul posto di lavoro, ecco che questo accumulo di conoscenze sul posto di lavoro tende a ridursi e purtroppo da essere uno dei paesi che era più avanti nella formazione sul posto di lavoro, noi siamo diventati un paese, come vi fa vedere questo grafico, in cui si dà meno formazione sul posto di lavoro. La quota di giovani che ricevono formazione sul posto di lavoro, quindi giovani tra i 20 e i 24 anni, è davvero bassa in Italia rispetto ad altri paesi. Siamo il fanalino di coda in questo gruppo di paesi dell'area dell'OCSE, e questo è sicuramente un fatto molto preoccupante. Ma passiamo adesso al secondo gruppo di riflessioni sulla questione giovanile. Vi ho detto, prima partiamo dal mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è responsabile delle difficoltà dei giovani, è il grande responsabile. Il grande problema dei giovani oggi è legato al mercato del lavoro, al loro ingresso nel mercato del lavoro. Però dobbiamo guardare anche alle cifre della povertà, perché sono molto importanti. Bene, questo è la percentuale di persone, sono dati dell'Istat, che sono in povertà assoluta, cioè sono persone che non riescono a raggiungere un livello di reddito che garantisce loro una vita decorosa, secondo la definizione dell'Istat. Quindi si contano le persone che sono sotto a questo livello di reddito. E questa conta viene fatta per diversi gruppi di età, quindi si contano la percentuale di famiglie in quel gruppo di età, in cui il capofamiglia a quell'età, che sono al di sotto di quel livello di reddito. E questa conta viene fatta annualmente, e questo grafico vi mostra l'evoluzione nel corso del tempo. Vedete che copriamo il periodo che va dal 2005 al 2015, e voi sapete che nel 2008 è iniziata questa crisi lunghissima, prima la grande recessione, poi una piccolissima ripresa e poi la seconda caduta nella crisi della zona euro, che praticamente si è interrotta nel 2015, quindi è stata una crisi davvero molto lunga. Bene, il messaggio credo evidente che viene fuori da questo, il primo messaggio è che c'è il gruppo di età che conosce, i gruppi di età che conoscono il più forte incremento della povertà sono quelli delle famiglie fino a 17 anni o dai 18 ai 34 anni, quindi i giovani sono coloro che hanno sofferto maggiormente l'incremento della povertà in Italia. C'è stato un incremento della povertà molto forte, la povertà è cresciuta di un terzo in questo periodo, in questo lasso di tempo, è cresciuta perché non abbiamo sistemi di protezione sociale adeguati, era qualcosa di inevitabile, ma oggi non parliamo specificamente della povertà, magari nella discussione ne parliamo. Il secondo messaggio però molto rilevante è che c'è un solo gruppo di età per cui la situazione non sembra peggiorare nel corso del tempo. Vedete questa linea che vi sto ripercorrendo, non so se vedete il cursore nel grafico, vedete, per questi la povertà era attorno al 4% nel 2005 ed è scesa leggermente nel 2015. Bene, questo gruppo di età è rappresentato dalle famiglie il cui capo famiglia ha 65 anni o più di età. Per loro la povertà non è aumentata nonostante questa lunga crisi, il che vi dice molto, perché vi dice che c'è concentrazione del disagio sui giovani, questo si spiega anche alla luce dell'andamento del mercato del lavoro, si spiega col fatto che le recessioni colpiscono soprattutto chi è in età lavorativa rispetto a chi è già uscito dal mercato del lavoro, ma si spiega anche col fatto che al di sopra dei 65 anni di età noi abbiamo un sistema di protezione sociale che copre contro i rischi di perdita del reddito, abbiamo dei minimi che vengono tutelati nel regime pensionistico, mentre al di sotto dei 65 anni noi questo sistema non l'abbiamo, e questo ci espone sempre, quando ci sono delle crisi, a un forte incremento della povertà, cosa che non avviene in altri paesi, non in anche altri paesi hanno vissuto degli shock comparabili a quelli del nostro paese, ma non hanno conosciuto una crescita della povertà così rilevante. Comunque noi vogliamo soffermarci sull'aspetto generazionale, perché questo è il tema del convegno, e il messaggio di questo grafico credo sia molto forte. Il problema della povertà in Italia è un problema soprattutto giovanile, non è certamente un problema delle persone con più di 65 anni di età, e questo invece è un altro modo di guardare al problema. Questa è povertà relativa, qui si guarda alla quota di famiglie che hanno un reddito inferiore a 2/3 del reddito mediano. La povertà relativa può in realtà di aumentare anche quando il reddito di tutti aumenta, perché è semplicemente una misura di disuguaglianza. Quindi se le disuguaglianze aumentano, se c'è un gruppo della popolazione che perde terreno rispetto alla media, questo fa aumentare la povertà relativa, e questo può avvenire anche in un contesto in cui il paese cresce. Come sapete, l'Italia non è in queste condizioni, siamo al di sotto dei livelli di reddito ante crisi, quindi l'aumento della povertà relativa è qualcosa di cui preoccuparsi. Ecco, se fossimo in una fase di crescita, l'aumento della povertà relativa non ci preoccuperebbe più di un tanto, perché potrebbe anche essere che l'aumento della povertà relativa avvenga in un contesto in cui comunque quelle persone stanno meglio. Qui stanno peggio nettamente degli altri. Vedete che qui i giovani sono chiaramente messi peggio degli anziani. Questa invece è sono definite come le famiglie vulnerabili, quelle che sono a rischio di povertà, è una definizione che viene adottata a livello europeo. Vedete come è drammaticamente cambiata, diciamo, il profilo della vulnerabilità. Fino agli anni 90 noi avevamo che le famiglie di giovani avevano un rischio di vulnerabilità, avevano una vulnerabilità inferiore, vedete questo istogramma rosso, questa barra rossa, rispetto a quello medio degli italiani, che era la barra blu. Nel corso del tempo in Italia la vulnerabilità è aumentata, lo vedete, questo è il riflesso anche di questa crisi molto forte, ma non solo, c'erano stati dei fenomeni anche precedenti, ma soprattutto la cosa più rilevante è che è aumentato lo svantaggio dei giovani rispetto alla popolazione italiana. Dicevo, qui era più bassa la vulnerabilità nel 91 rispetto alla vulnerabilità media degli italiani. Nel 2010 siamo in una situazione in cui invece i giovani stanno peggio, sono più esposti al rischio della media degli italiani. Quindi questo conferma, insomma, il fatto che c'è una grande questione giovanile nel nostro paese che va affrontata, perché la situazione dei giovani oggi in Italia è indubbiamente preoccupante. Bisogna fare qualcosa per affrontare questo problema, anche perché altrimenti la reazione dei giovani è quella di andarsene. Questo grafico vi fa vedere, sono anche qui due ricercatori di ISIT-IMS che hanno messo insieme i dati di cui dispone l'istituto con i dati dell'AIRE, che è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e hanno documentato questa cosa che non era stata sin qui vista, cioè quante persone hanno lasciato il nostro paese dal 2010 in poi. Vedete questa impennata, questi sono giovani che lasciano il nostro paese, si parla di 100.000, 150.000 persone che se ne sono andate, spesso sono anche persone istruite, che vanno all'estero perché il mercato del lavoro italiano non offre per loro delle prospettive. Tra l'altro, ecco, io devo dire, mi preoccuperei di meno se queste persone andassero all'estero e potessero realizzare il loro potenziale. Quindi tutto sommato, almeno per loro, cioè, siccome sono comunque persone nate nel nostro paese, sarei contento di sapere che andando all'estero, emigrando, hanno comunque come molti, insomma, come nostri antenati, trovato una fortuna. Il problema è che non sempre che avviene questo. Io, se si va a Londra, se vi capita di andare a Londra e andare nei ristoranti, voi trovate che sono pieni di camerieri italiani. Sono camerieri italiani che spesso hanno una laurea, sono persone che probabilmente avrebbero delle grandi prospettive e si trovano a fare questo mestiere non perché assieme al fatto di fare il cameriere magari stanno seguendo dei corsi lì e stanno cercando lavoro, ma tendono poi a finire per fare unicamente quel lavoro, perché sicuramente il cameriere a Londra è pagato molto di più di qualsiasi lavoro che queste persone potrebbero trovare oggi all'interno del nostro paese. Però quelle persone potrebbero ambire a fare qualcosa di più di fare il cameriere, date le conoscenze di cui dispongono, per cui alla fine non è una soluzione neanche per loro quella di andare all'estero. Poi certamente c'è la preoccupazione legittima che chiaramente noi tutti abbiamo di perdere questo capitale umano, sono delle persone. Poi il capitale umano si deperisce se uno continua a fare quei mestieri e soprattutto di perdere delle persone che stando, insomma, se il nostro mercato del lavoro, se la nostra economia offrisse delle opportunità maggiori per i giovani, noi ne trarremmo grandemente beneficio dalla presenza di persone che hanno appena terminato il loro corso di studi, quindi hanno un sacco di idee, hanno anche molta creatività. C'è una cosa che si tende spesso a non enfatizzare a sufficienza. Se voi guardate al profilo per età delle grandi scoperte, delle grandi innovazioni, voi vedete che normalmente le grandi innovazioni sono concentrate su persone che hanno tra i 30 e i 35 anni. Questo non vuol dire che le persone che hanno più di 35 anni non siano altamente produttive, non abbiano capacità, abilità a diversi livelli, ma la grande innovazione, la grande creatività la si esprime relativamente presto nella propria carriera lavorativa. Forse si ha più coraggio, si hanno meno, non lo so, pregiudizi, si ha più libertà di pensiero, insomma si prendono più rischi probabilmente anche nel lanciarsi in alcuni progetti, nel dedicarsi, magari si hanno meno distrazioni, si è più concentrati, non lo so, sono tanti i fattori, però indubbiamente se noi guardiamo nel mondo ci sono degli studi che hanno per esempio guardato all'età dei premi Nobel quando hanno fatto quelle scoperte in virtù delle quali hanno poi ricevuto il premio Nobel. Noi vediamo, i premi Nobel spesso sono delle persone molto anziane, ma come sapete il premio Nobel viene dato a delle persone per un risultato che hanno ottenuto nella loro carriera. Ecco, la data di quel risultato tipicamente parla giovane, sono persone tra i 25, i 30, i 35 anni al massimo. Bene, se noi ci priviamo di queste capacità, noi perdiamo la capacità inventiva, la creatività, di cui abbiamo terribilmente bisogno, perché un paese come il nostro, per competere a livello internazionale, ha bisogno di innovare costantemente, di cambiare, di questa creatività. È davvero essenziale per il nostro paese. Quindi passiamo alla parte, diciamo, su cui vorrei aprire la discussione. Cosa possiamo fare noi oggi per i giovani? Quali sono le cose che noi dobbiamo fare? E facendole per i giovani noi affronteremo i problemi anche delle persone che oggi non sono più giovani, perché effettivamente io credo che affrontare la questione giovanile è un modo di dare un futuro al nostro paese e quindi è un modo di dare prospettive a tutti noi, anche se non siamo più giovani. Allora, prima cosa, quello che non andrebbe fatto, questo grafico ve lo dice abbastanza chiaramente. La cosa che davvero sorprende quando si guarda questi dati è il fatto che già nel 2007 in Italia i pensionati avevano mediamente un reddito che era di poco inferiore al 70% dei lavoratori dipendenti. Quando si immagina delle carriere ai redditi per età, tipicamente si pensa ad una situazione in cui c'è proprio la teoria del ciclo di vita, in cui per esempio Modigliani ha preso il premio Nobel, che ci dice che si inizia la carriera con dei redditi relativamente bassi, poi c'è un progresso salariale, si aumentano i redditi, attorno a 50 anni di età si arriva al massimo della propria capacità di generare redditi e poi c'è un declino e quando si va in pensione si hanno redditi che sono nettamente inferiori a quelli che si aveva quando si lavorava. In effetti tipicamente uno accumula dei redditi, quindi accumula delle ricchezze durante la propria vita lavorativa e poi utilizza queste ricchezze quando va in pensione, quindi c'è un periodo di accumulo di risparmio e poi un periodo in cui si consumano queste ricchezze. Quindi le persone che sono in pensione sono più ricche delle persone che stanno lavorando, ma hanno dei redditi più bassi di coloro che stanno lavorando. Questa è la differenza tra ricchezza e reddito, penso vi sia chiaro. Il reddito è quello che uno percepisce ogni anno, la ricchezza è quell'insieme di redditi che uno ha accumulato durante l'intero arco della sua vita lavorativa. Tipicamente nei paesi occidentali noi troviamo che il reddito dei pensionati è attorno al 55% del reddito di chi lavora. In Italia noi nel 2007 avevamo un reddito dei pensionati che era al 70%, di poco inferiore al 70% a quello dei lavoratori. Cos'è successo dal 2007 in poi? Che la distanza tra lavoratori e pensionati, lo vedete, queste due linee non vanno in parallelo, ma c'è la linea dei lavoratori che di fatto è piatta, i lavoratori sono rimasti quasi praticamente allo stesso livello, soprattutto se guardiamo agli anni più recenti nel reddito. Tra l'altro questi sono lavoratori, sono persone che continuano a lavorare, poi ci sono i disoccupati chiaramente, quindi non li stiamo tenendo in considerazione. Se tenessimo in conto anche i disoccupati la situazione sarebbe ben peggiore per questa fascia d'età. D'altra parte vi ho fatto vedere prima i dati sulla povertà, mentre invece continua a aumentare in modo ripido la posizione dei pensionati, quindi il ritardo si è ridotto, la differenza si è ridotta. Oggi abbiamo i pensionati che hanno un reddito non ricchezza, che è superiore all'80% di quello dei lavoratori. Bene, io mi chiedo, se noi andiamo avanti di questo passo, noi rischiamo di arrivare ad una situazione in cui il reddito da lavoro rispetto al reddito dei pensionati, la distanza tende a ridursi e a diventare vicino allo zero. A quel punto tutti i lavoratori saranno lì che anelano per poter andare in pensione prima possibile. Spostiamo proprio l'enfasi, anche la progettualità delle persone verso la pensione, diventa quello l'unico aspetto davvero importante della propria vita. Ecco, mi chiedo, un paese che continua a investire su coloro che hanno smesso da tempo di lavorare, è un paese che ha davvero delle prospettive? Io credo di no. Noi dobbiamo puntare soprattutto per valorizzare la capacità di generare il reddito di chi lavora, di chi è produttivo all'interno del nostro paese. Quindi questo è un primo aspetto. Noi continuiamo a investire, se noi guardiamo al profilo anche distributivo di molte misure di politica economica, in chi ha smesso di lavorare rispetto al fatto di investire. C'è sicuramente molto da fare nell'ambito del sistema pensionistico per riequilibrare, perché ci sono dei trattamenti e anche al di fuori del sistema pensionistico, pensiamo alla questione delle rendite vitalizie per le cariche elettive. Dicevo, qui c'è sicuramente un'operazione di riequilibrio da fare nell'ambito del sistema pensionistico, ma attenzione a togliere risorse al lavoro per dare queste risorse a chi è in pensione. Questa non è un'operazione che credo sia giusto fare in un paese come il nostro, che ha un terribile problema giovanile, ha un grossissimo problema legato al funzionamento del suo mercato del lavoro. Noi oggi dovremmo concentrare la nostra attenzione sul mercato del lavoro, migliorare il nostro mercato del lavoro, perché è da lì che dipendono le sorti delle giovani generazioni e poi, in ultima analisi, le sorti del nostro paese. Quindi questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, noi dobbiamo fare molto sulla transizione tra scuola e lavoro. Qui ci sono delle questioni che riguardano il funzionamento del sistema universitario, i primi passi nella carriera. Prima vi ho fatto vedere come si è ridotta fortemente la formazione sul posto di lavoro in Italia. Questo è un problema che credo vada affrontato a doppio livello, da una parte sul sistema universitario, dall'altro lato sull'ingresso nel mercato del lavoro. Devo dire, le misure che sono state adottate recentemente in Italia col Jobs Act affrontano il secondo aspetto, quello dell'ingresso nel mercato del lavoro, e a mio giudizio sono promettenti e ne vedremo i frutti nei prossimi anni, ma dobbiamo ancora fare molto sul sistema universitario e qui c'è ancora troppa disattenzione. Noi abbiamo un dato preoccupante sull'Italia, il calo delle immatricolazioni all'istruzione universitaria. Questo è un fatto preoccupante perché l'Italia ha un rapporto tra laureati e popolazione più basso di tutti gli altri paesi dell'area OCSE, quando è noto che la laurea e l'istruzione sono i fattori di successo. Perché questo avviene? Perché uno spesso ha paura di dover intraprendere un lunghissimo percorso di studi. In effetti le lauree in Italia, quelle se si fanno appunto le lauree, quindi biennio più triennio più magari corsi di specializzazione e dottorati, sono orizzonti di 8-10 anni e nelle condizioni anche di difficoltà economica delle famiglie oggi in Italia, pensare 10 anni prima, investire per 10 anni nell'istruzione di colpi di un figlio, sapendo che insomma è una decisione molto complessa e quindi talvolta si decide di entrare subito nel mercato del lavoro. Ecco, noi abbiamo introdotto i trienni che dovevano essere un modo per garantire un'uscita prima dal sistema universitario verso il lavoro. Dovevano essere dei trienni professionalizzanti, ma non sono stati tali. Sono diventati soltanto propedeutici al biennio. Ecco, io credo che noi dobbiamo invece dare vita a questi trienni professionalizzanti. Ne abbiamo la possibilità perché noi abbiamo fin troppe sedi universitarie, devo dire, in Italia, le abbiamo praticamente in tutte le città. ed è anche una delle ragioni per cui la scelta del corso di laurea spesso viene vissuta come una scelta tutto sommato di piacere, di consumo, e non una scelta di investimento da molte famiglie. Ma il fatto di averle in così tante sedi universitarie, troppe province, perché quando vogliamo fare davvero ricerca di qualità, davvero didattica avanzata per dottorandi, eccetera, noi abbiamo bisogno di concentrarci, abbiamo bisogno di avere, proprio ci sono grandissime economie di agglomerazione in questo campo. Bene, il fatto di averne però così tante ci permette lo stesso di fare dei trienni che siano professionalizzanti, in cui le università siano in rapporto col mondo delle imprese, le piccole imprese, facciano formazione di questi lavoratori e questi lavoratori inizino subito ad avere un reddito, perché passano metà del loro tempo in università e metà del loro tempo in azienda. Tra l'altro ci sarebbe un controllo reciproco, perché l'università ha tutti gli interessi che l'azienda faccia davvero formazione, non si limiti a dire questo è un contratto di formazione. Noi sappiamo che molti contratti che si chiamano di formazione in realtà di formazione non hanno assolutamente nulla, quindi però se c'è l'università da una parte che controlla, la pressione sull'impresa perché faccia formazione c'è, e dall'altro lato l'impresa avrebbe tutti gli incentivi a controllare che l'università faccia bene il suo mestiere, perché chiaramente se un lavoratore non impara nelle aule universitarie è un lavoratore di poco. Quindi noi dovremmo, credo, porci questo obiettivo. Se noi guardiamo in giro per l'Europa ci rendiamo conto che i paesi che hanno questi sistemi di apprendistato avanzato, di formazione, quello che si chiama vocational education, sviluppati per queste fasce di età, sono quelli in cui la disoccupazione giovanile è più bassa. La Svizzera, la Germania, sono proprio casi di questo tipo. Seconda cosa, dicevo, sul mercato del lavoro, qui l'idea di avere un contratto a tutele progressive è importante, perché se noi favoriamo l'ingresso dei giovani dalla porta principale dei contratti a tempo indeterminato, aumentiamo moltissimo gli incentivi per il datore di lavoro e per il lavoratore a dare formazione. Se voi avete un contratto a termine, voi come lavoratori sapete che al termine del contratto molto probabilmente questo contratto non vi verrà rinnovato, quindi non avete molti incentivi a investire, a imparare bene quel mestiere. Forse se avete del tempo libero lo dedicate a cercare un lavoro alternativo, perché sapete che quel lavoro lì non ha grandi prospettive. Se siete un datore di lavoro, avete un lavoratore che ha un contratto a termine, anche lì non credo che darete molta attenzione, peso e sforzi, energie a formare il lavoratore, perché sapete che quando il lavoratore se ne andrà, ed è presumibile che sarà lui ad andarsene, perché gli conviene licenziare quel lavoratore, non rinnovare il contratto alla scadenza, piuttosto che licenziare un altro lavoratore che costa molto di più, ecco, quelle conoscenze che voi trasferite a quel lavoratore se ne andranno assieme al lavoratore. Ecco, l'investimento in capitale umano è qualcosa di strano, perché si investe nelle persone, le persone non rimangono nell'azienda, se ne possono andare. Quindi se noi diamo degli orizzonti più lunghi a un contratto, come avviene con il contratto a tutele crescenti, con i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, noi abbiamo la speranza che questo si traduca in maggiore investimento in formazione sul posto di lavoro, quella cosa che manca tantissimo al nostro paese, come dicevo prima, perché c'è stato questo, oggi siamo il fanalino di coda. Quindi quello che è successo in Italia dal 2015 in poi è che noi abbiamo questo contratto a tutte le crescenti, seppur in forme leggermente diverse da magari quelle in cui si era pensato, ma si è andati in quella direzione, e devo dire che c'è un numero già consistente. Noi abbiamo oggi in Italia circa 2 milioni e mezzo di persone che hanno quel contratto. Le assunzioni di giovani con contratti a tempo indeterminato, la quota di assunzione di giovani è aumentata fortemente, e questo mi fa guardare con una certa fiducia al futuro, perché vuol dire che questo aspetto è stato in parte affrontato. Bisogna fare ancora di più sicuramente, ma è già un primo passo importante. Io credo che noi dovremmo andare a rendere più strutturali quelle forme di alleggerimento del carico fiscale sui giovani, per permettere maggiormente a loro un ingresso presto nel mercato del lavoro, così realizzeranno anche il loro potenziale innovativo con questi contratti a tempo indeterminato. Quindi diciamo scuola, diciamo i messaggi chiave sono: dobbiamo puntare di più sul mercato del lavoro piuttosto che sul dopo mercato del lavoro, e dobbiamo guardare con attenzione alla transizione tra scuola e lavoro. E questa transizione chiaramente vuol dire lavorare sia sul sistema dell'istruzione formale sia su quello dell'istruzione che viene, della formazione che avviene all'interno dell'azienda. D'altra parte il fatto che si debba investire in questa transizione nel sistema formativo, vi dice che insomma noi in Italia abbiamo per tanti anni davvero investito in solo una delle istituzioni che opera, diciamo, che presiede ai rapporti tra generazioni, il sistema pensionistico. Il sistema pensionistico è tipicamente un sistema, un'istituzione che trasferisce dei redditi dai giovani alle generazioni più anziane. Insomma, voi sapete che un sistema pensionistico si regge perché ci sono i lavoratori che pagano le pensioni agli attuali pensionati, quindi il trasferimento avviene dai giovani agli anziani. I giovani danno questi contributi sapendo che poi toccherà loro il futuro e sperano di essere trattati allo stesso modo di chi li ha preceduti. Purtroppo questo lo sanno già, in realtà non avverrà tanto all'interno del nostro paese. Però c'è un'altra istituzione molto importante in cui invece il trasferimento avviene al contrario. Sono le persone di una certa età che trasferiscono delle risorse ai giovani, e questo sistema si chiama sistema dell'istruzione. La scuola, l'università fanno questo perché sono finanziate in buona parte da chi lavora, in parte anche da chi è in pensione perché pagano le imposte sui redditi, e la scuola dà prospettive a chi è giovane oggi. Quindi io credo che noi dovremmo lavorare di più su questa seconda istituzione, l'abbiamo lasciata cadere troppo all'interno del nostro paese. Non è un caso che i primi tagli che sono stati fatti alla spesa pubblica in Italia siano stati soprattutto quelli ai danni del sistema educativo. Bene, tutto questo però poi si scontra con dei vincoli politici. I politici vogliono farsi rieleggere e quindi trovano sempre, c'è una ragione per cui noi abbiamo dato molto più attenzione alle pensioni e molta meno al sistema. E questa ragione viene dimostrata da questo grafico che vi fa vedere l'età dell'elettore mediano. L'elettore mediano è, diciamo, quello che tutti i politici inseguono. Se riusciamo a raccogliere il voto dell'elettore mediano, riusciamo a vincere le elezioni. Bene, l'elettore mediano sta invecchiando rapidamente. Questo vi fa vedere le proiezioni, in base alle proiezioni demografiche, l'età dell'elettore in Italia. Vedete, quella linea rosa vi fa vedere l'elettore del Senato e la linea blu vi fa vedere l'età dell'elettore della Camera mediano. Tra l'altro vi dirò che questo grafico implicitamente ci dà una ragione per cui superare il Senato elettivo servirebbe al nostro paese, perché abbasseremmo l'età dell'elettore mediano, quindi daremmo, diciamo, anche al confronto politico in Italia una più forte attenzione ai giovani di quello che avviene, oggi. E la differenza è significativa, in alcuni casi si tratta di 3-4 anni, non sono pochi, vi assicuro, dal punto di vista delle preferenze. Bene, ma io penso che il grande, diciamo, la grande politici che abbiano una visione per il nostro paese, che non siano preoccupati della rassegna stampa del giorno dopo, ma che abbiano una visione, che pensino alle prospettive del nostro paese nei prossimi 10, possibilmente nei prossimi 20 anni, debbano essere in grado di trasferire a questi elettori mediani alcuni messaggi chiave, che sono quelli che ho cercato di riassumere in questa pagina. Primo, se il nostro paese non torna a crescere, le pensioni in futuro inevitabilmente saranno più basse. Quindi noi abbiamo bisogno di dare prospettive ai giovani, perché se non diamo prospettive ai giovani, il sistema pensionistico non può reggere. È un sistema pensionistico che funziona nell'ambito di un'economia che cresce, che genera reddito, altrimenti la situazione anche di chi è in pensione rischia di peggiorare nel corso del tempo. Quindi bisogna investire sul lavoro per permettere una vita migliore anche a chi oggi è già in pensione. Secondo, per le persone che stanno arrivando alla pensione, che sono poco prima della pensione, puntare sui giovani è essenziale perché valorizza il loro ruolo nelle aziende. Inevitabilmente si lavorerà più a lungo. Cosa fanno le persone che hanno più di 55, che hanno verso... Bene, loro sono in grado di trasferire conoscenze. C'è una delle, se si guarda i grafici dell'abilità, ci sono molti grafici che vanno a vedere il profilo dell'abilità in base all'età. Quello che succede è che in effetti nell'inventiva, dicevo prima, quell'abilità tende a ridursi con l'età. Ci sono, vabbè, ovviamente per i mestieri non intellettuali ci sono chiaramente le capacità fisiche che tendono a deteriorarsi, ci sono per esempio la capacità di appunto matematica, tutte queste cose qui tendono a ridursi nel corso del tempo, però c'è una cosa che invece tende ad aumentare ed è la capacità di insegnare, di trasferire, di comunicare. di trasmettere conoscenze. Questo è qualcosa che con l'età aumenta, perché forse si diventa più bravi, si capisce di più, si impara totalmente a fondo una cosa che sia in grado di trasferire queste conoscenze. Bene, se ci sono più giovani in un'azienda, vuol dire dare una prospettiva anche ai lavoratori più anziani, che è quella di trasferire queste loro conoscenze, ed è una delle cose più belle. Io non so, io ho fatto il mestiere del docente, è il mio mestiere, e quindi vi assicuro che è bellissimo fare questo, ed è un modo di dare grande soddisfazione anche alle persone che sono verso la fine della loro carriera. Non c'è niente di più bello di sapere di avere trasmesso delle conoscenze. Quindi avere più giovani all'interno dell'azienda è quello che migliora le prospettive di lavoro e dà una ragione anche ai lavoratori più adulti, li rende più produttivi per l'impresa, perché rende meno costoso la formazione di questi giovani. Quindi anche qui c'è davvero un modo di far capire che investire sul lavoro vuol dire investire anche sulle generazioni. Questo è un altro messaggio che andrebbe dato. Terzo, la sanità. Chiaramente chi ha una certa età si preoccupa per le proprie condizioni di salute, e noi sappiamo che ci sono stati progressi incredibili. La longevità è frutto, il fatto che si viva più a lungo, di progressi incredibili della medicina. Purtroppo non sempre questi progressi della medicina che ci permettono di vivere più a lungo si associano anche al fatto che si vive sani più a lungo. Anzi, purtroppo ci sono alcuni casi in cui alcuni dati che mostrano che purtroppo la vita sana si è un po' ridotta in alcune generazioni, perché quello che succede è che si contraggono delle malattie prima, quindi a quel punto si hanno dei periodi di esistenza non sani più lunghi. Allora, noi vogliamo invece avere prevenzione, vogliamo avere sanità di qualità, che ci permettano di vivere più a lungo e di vivere sani più a lungo. Ma per fare queste cose abbiamo bisogno di soldi, perché costano queste cure. Quindi crescere, avere un'economia che investe su chi lavora, che dà prospettive ai giovani, è essenziale per assicurarci una vita sana più lunga. Quindi è qualcosa che guarda anche le generazioni più anziane. Questo è un altro messaggio che serve ad evitare un conflitto intergenerazionale. Poi ci sono degli aspetti più specifici. Molte persone che sono in pensione si trovano oggi in una condizione in cui c'è un termine in inglese, si chiama house rich e cash poor, vuol dire che sono persone che hanno magari anche degli ingenti patrimoni immobiliari, ma che hanno problemi di liquidità. E quindi questi grandi patrimoni immobiliari poi sono poco liquidi, e quindi non possono neanche utilizzare. Ecco, il fatto di avere dei giovani che entrano prima nel mercato del lavoro, di attrarre gente di qualità dall'estero, valorizza i patrimoni immobiliari, perché i giovani si spostano, si muovono, sono quelli che alimentano poi anche il mercato immobiliare, perché hanno bisogno di trovare casa, eccetera. Quindi è qualcosa che fa aumentare la ricchezza di chi è in pensione. E infine, il fatto di avere un mercato del lavoro che dà più prospettive ai giovani, e più prospettive ai giovani istruiti, migliora anche il rapporto con l'immigrazione, perché noi in Italia abbiamo ancora un'immigrazione che spesso tende a privilegiare persone che hanno livelli di istruzione relativamente bassi. Noi potremmo aspirare ad avere anche un'immigrazione di laureati, di persone di assieme agli immigrati che arrivano, insomma, comunque avere un profilo dell'immigrazione che porti talenti, cervelli. Le persone che hanno più alto livello di istruzione tendono anche a creare lavoro per le persone meno istruite, quindi il fatto di avere un'immigrazione di persone più istruite servirebbe anche a trovare più facilmente lavoro agli stessi immigrati che sono meno istruiti all'interno del nostro paese. Ecco, questi sono, credo, messaggi che vi dicono quello che bisognerebbe dire all'elettore mediano per convincerlo a fare delle scelte e a votare per coloro che fanno delle proposte che guardano di più ai giovani e a chi lavora oggi all'interno del nostro paese. Grazie. Tito Boeri, presidente dell'INPS, intervenuto a Open Field 2016, svoltosi a Padova, Facoltà Teologica del Triveneto, lo scorso 26 di novembre, sul tema di generazione in generazione, costruire la città futura. Restiamo sul tema con l'intervento della ricercatrice Cristina Pasqualini. I giovani, le generazioni di un futuro che è quasi presente, ci sono i NEET, coloro che non lavorano, non studiano, non cercano lavoro, i millennials, la fragilità del desiderio di mettersi in gioco. L'Istituto Toniolo di Milano ha redatto il rapporto giovani, l'ultima edizione è quella del 2016, e appunto la professoressa Cristina Pasqualini analizza alcuni di questi dati. Oggi vi racconto chi sono, provo a raccontarvi, provo a fare una fotografia di chi sono i giovani in Italia. E lo faccio a partire dai risultati che abbiamo raccolto attraverso un'indagine scientifica, sia quantitativa che qualitativa, e quindi non sono sondaggi, ma sono indagini appunto rappresentative che vengono fatte dall'Istituto Toniolo, nello specifico l'Osservatorio Giovani, un osservatorio che nasce nel 2011 e si pone il compito di capire chi sono. Perché purtroppo ci è sembrato che in questi ultimi anni sono state fatte delle fotografie non troppo spesso positive. Ricorderete tutti le varie etichette che sono state attribuite alla generazione giovani, bamboccioni, ciusi, generazione perduta. Chi sono veramente questi giovani? Possiamo forse provare a dirlo andando a parlare con loro. Lo abbiamo fatto, li abbiamo intervistati, quindi i risultati che vi presentano sono i risultati di un confronto con i giovani stessi. Dati quantitativi ma anche dati qualitativi. Quando intendo per dati qualitativi significa interviste faccia a faccia con i ragazzi in profondità, in cui abbiamo speso del tempo, anche tanto tempo. Quindi questo penso possa essere uno strumento interessante per riflettere assieme ai dati che abbiamo visto prima. Allora, la fascia di età che andiamo a considerare, perché questo è importante, sono la generazione dei millennials. Chi sono i millennials? Sono quei giovani che hanno un'età compresa tra i 18 e i 32 anni. Quindi questo per capire all'interno di che orizzonte ci stiamo muovendo. È evidente, questo mi sembra intuibile, che ci siano delle differenze significative tra i giovanissimi, ovvero i 18 anni, e chi ha un'età più prossima all'adultità, alla transizione adulta di 32 anni. Però generalmente nel nostro paese i millennials sono questa generazione. Inizio a parlare di valori, perché di questo non abbiamo parlato oggi e credo che sia importante per capire cosa hanno a cuore questi ragazzi. I giovani in Italia mettono al primo posto in una possibile scala di valori, una piramide, la famiglia. Questo non è un dato nuovo, se noi guardiamo le indagini negli ultimi 30 anni almeno è un dato che viene confermato, quindi per i giovani in Italia la famiglia è un valore, è un obiettivo importante. Nonostante la famiglia sia talvolta scombussolata, in crisi, non più istituzionale come lo era forse qualche decennio fa, comunque resta un punto di riferimento e un obiettivo, un valore importante. Accanto alla famiglia i giovani mettono tutta un'altra serie di valori riconducibili proprio all'affettività, quindi l'amicizia, l'amore, ma mettono anche il divertimento. Io credo, dopo tutte le cose che abbiamo già sentito, che rilevare che un giovane a 20 anni abbia ancora voglia di divertirsi sia comunque una cosa naturale per la loro età, quindi non la vedo come una cosa negativa. Certo che l'impegno va associato al divertimento, infatti il lavoro e lo studio vengono al secondo posto, insieme al successo e alla carriera personale. La cosa interessante, che non è un dato nuovo, ma che le nostre indagini confermano, è come l'impegno sociale, in generale tutta la sfera dell'impegno, impegno sociale, religioso, attività politica, vedete che nella prima piramide di sinistra viene posto in basso dal giovane. Quindi sono molto concentrati su quei valori più individualistici e meno concentrati su tutta la sfera dell'impegno. Allora abbiamo chiesto ai nostri giovani, ma ragazzi, secondo voi, i vostri fratelli maggiori, ovvero idealmente coloro che hanno 30 anni, abbondantemente 30 anni, tra i 30 e 40 anni, che valori hanno oggi? E vedete che confermano per i loro fratelli maggiori la famiglia al primo posto, ma il lavoro si sposta in alto. Mentre la cosa interessante è che il divertimento scende, lo studio scende, ma la fascia dell'impegno rimane invariata. Questo vuol dire che chi ha 20 anni e chi ha tra 30 e 40 anni, dal punto di vista dell'impegno, non ha sostanziali differenze nelle loro rappresentazioni. Abbiamo allora chiesto, visto che qua si parla di generazioni, mi sembrava un dato interessante ai nostri giovani, di dire, ma secondo voi ragazzi, i vostri genitori, quando avevano la vostra stessa età, ovvero 20 anni, che valori avevano? Per questi ventenni, i loro genitori alla loro età avevano questo tipo di valori. La famiglia rimane al primo posto. Il valore del lavoro sale, vuol dire che il lavoro era percepito come più importante, più centrale già a 20 anni. Ma la cosa più stravolgente è che tutto l'impegno sale moltissimo. Vedete che l'impegno sociale, l'impegno religioso, l'attività politica è al secondo posto. Quindi ci sono comunque delle significative disuguaglianze, differenze generazionali e ci sono delle differenze imputabili invece all'età. Le differenze imputabili all'età tra le generazioni, in particolare tra quelli che sono i ventenni e i trentenni e i quarantenni, sono legate a questo fenomeno, ovvero con il crescere dell'età la famiglia diventa più importante e meno peso, meno tempo si dedica all'amicizia. Il lavoro diventa più centrale e il divertimento dovrebbe in qualche maniera ridursi nelle sue dimensioni. Il lavoro diventa più centrale e lo studio in qualche maniera dovrebbe essere un'esperienza che va a completarsi. Accanto ai valori, ovvero alle cose che sono importanti per i giovani, c'è quest'altro dato che è significativo, ovvero quanta fiducia hanno i nostri giovani nei confronti delle istituzioni. Io credo che abbiano perso molta fiducia nelle istituzioni. Fondamentalmente quando parliamo con loro si sentono abbandonati, si sentono soli, si sentono non tutelati. Quindi, fatta eccezione della famiglia che c'è ancora, che tiene nel nostro paese, tutto il resto sembra essere poco degno di fiducia. Vedete che tra le cose a cui conferiscono meno fiducia in Italia i partiti politici appunto sono il fanalino di coda, mentre mi sembra un dato interessante vedere come in Italia ancora la scuola e l'università, visto che di questo si è parlato anche questa mattina, siamo ancora un'istituzione tutto sommato ancora degna di abbastanza fiducia. La Chiesa ha una posizione intermedia, vedete, il 33,8% ha fiducia nella Chiesa Cattolica. E un dato comunque non troppo positivo è il fatto che il 60% comunque afferma che le persone sono poco degne di fiducia. Vuol dire questo che non avere fiducia negli altri, le persone con cui siamo in contatto, vuol dire comunque restringersi sempre in quell'individualismo che abbiamo accennato prima. E vuol dire non provare a costruire con gli altri delle soluzioni, non aver fiducia negli altri. Questo è un loro tratto caratteristico che tuttavia ci sembra aprire delle piccole finestre. Se noi pensiamo a tutte le nuove forme di economia, faccio un esempio, la sharing economy, sappiamo essere delle forme collaborative proprio più tipiche delle giovani generazioni. Quindi qualcosa probabilmente i giovani stanno cambiando, stanno forse pensando che i problemi che vivono sulla loro pelle non sono problemi individuali, sono problemi generazionali. Allora, se i problemi sono generazionali, le risposte non possono essere individuali, ma debbono essere necessariamente collettive. Questo è il salto che stanno provando a fare, trovare risposte collettive a problemi che sono generazionali. E questo forse li può anche aiutare per uscire un po' da quel senso di depressione, dire caspita, non ce la faccio. No, insieme forse possiamo trovare le soluzioni. Allora, questo è un altro esercizio che facciamo fare ai giovani quando li intervistiamo, che mi sembra interessante. Chi sento più vicino a me? Immaginate questi cerchi concentrici in cui al centro c'è la persona, quindi io. Come posiziono queste figure rispetto alla mia persona? Allora, vedete che quando le persone posizionano proprio fisicamente queste figure all'interno di queste cerchie, mettono sempre i genitori e i fratelli molto vicini a se stessi, questo ritorna nei valori, ma anche gli amici e partner, quindi le figure affettive sono prossime alla mia persona, le sento vicino. Gli insegnanti e i preti non sono poi così lontani, vengono subito dopo comunque le prime figure primarie di riferimento. Allora è interessante come invece altre figure siano percepite come proprio lontane, quindi quando parlo di istituzioni, il Presidente della Repubblica chiaramente è un'istituzione totalmente esterna alla mia vita quotidiana e questo è un dato che mi piace riportare perché quando abbiamo fatto, questo è un risultato di quando appunto era Papa Benedetto XVI e quindi lo posizionavano comunque abbastanza lontano e mi dicevano all'epoca quando lo intervistavo, dottoressa però se avessimo avuto Papa Giovanni Paolo II l'avremmo messo più vicino perché l'avremmo percepito più vicino. E la cosa interessante è che rifacendo poi in questi ultimi anni questo stesso esercizio si vede proprio come Papa Francesco abbia rivoluzionato i nostri giovani e sia praticamente sulla stessa linea dei genitori e dei fratelli, lo percepiscono come una figura vicina, una figura amica, familiare e questo è un elemento importante che poi vedremo anche più avanti. Quindi se questi ragazzi hanno un problema, che cosa fanno? Dove vanno? Chi si rivolgono banalmente? Queste sono state i risultati delle nostre indagini. Se hanno un problema pragmatico da risolvere, allora la prima cosa che fanno è si informano da soli. Hanno una capacità di informarsi che non era propria alle altre generazioni, se di generazioni stiamo parlando. Quindi vanno in internet, in rete e sanno benissimo dove andare a raccogliere le informazioni. Spesso tuttavia non distinguono le informazioni vere dalle bufale. Noi sappiamo che adesso stiamo facendo un approfondimento sui social network, quanto spesso magari vanno su Facebook e non sanno distinguere se quell'informazione è corretta, la fonte è corretta oppure no. Quindi bisogna comunque fare attenzione su come si informano, ma quello è un altro discorso. Una volta che si sono informati autonomamente, cosa fanno? Condividono l'informazione con i familiari, con gli amici, con i partner, gli insegnanti. Cosa vuol dire questo? Che se condividono l'informazione, vuol dire che comunque qualcuno c'è intorno a loro, qualcuno trovano. Quindi non dicono che non c'è nessuno intorno a loro. Ne parlo con la mia prof, ne parlo con il mio prete, ne parlo con la mia amica, con il mio ragazzo. Quindi sanno ancora di poter far conto su qualcuno. Se c'è un problema psicologico, qua mi sembra interessante, perché comunque se di generazione si parla, mi sembra che comunque il conflitto intergenerazionale siano comunque oramai prossimi a scomparire. In famiglia c'è un buon clima comunicativo, questo le famiglie vogliono coltivarlo, un buon clima, si parla e quindi se c'è un problema è comunque frequente che i nostri giovani parlino con i genitori e anche con i fratelli e le sorelle. Più raramente si rivolgono a uno specialista che può essere appunto una figura religiosa piuttosto che un psicologo. Quindi la rete familiare, la rete di prossimità tiene anche di fronte a queste emergenze. E le figure di riferimento, io trovo sia bellissimo quando si intervistano sentire questi ragazzi che dicono per me la figura di riferimento è mio padre, quando sarò grande vorrei essere come lui. Ma non è importante che faccia panettiere piuttosto che l'idraulico, piuttosto che il professore universitario. È importante che riconosca l'integrità morale di una persona, valoriale di una persona che vuole poi provare a riproporre nel suo vissuto, nella sua pratica di vita. Ci sono anche delle figure carismatiche che percepiscono come figure guida, come modelli di vita. Allora il Papa Francesco viene nominato, stranominato, ma anche Madre Teresa è una figura molto amata dalle persone perché incarna quei valori cristiani sulla terra, è il fare concreto che piace comunque ai giovani. C'è un tema qua che io introduco molto velocemente, ma mi sembra centrale e fondamentale, la questione degli immigrati. Perché se noi facciamo un quadro generale in cui parliamo dei valori, dei disagi, come diceva anche il professor Boeri, delle difficoltà che trovano sul lavoro, la componente dell'immigrazione impatta oggi molto nei loro vissuti, anche a livello di opinioni e rappresentazioni. Allora abbiamo fatto lo scorso anno, sempre come Osservatorio Giovani, un approfondimento europeo in cui abbiamo deciso di indagare, di intervistare non soltanto i giovani italiani, ma anche i giovani di altri 4 paesi, quindi la Germania, il Regno Unito, l'Italia, la Spagna, la Francia, per complessivi 5.000 giovani, sono campioni rappresentativi. Allora, noi vediamo da questo grafico che in Italia abbiamo all'incirca 5 milioni di abitanti con altra cittadinanza. E vediamo cosa dicono i nostri giovani. Per i nostri giovani italiani, quanti sono gli immigrati nel nostro paese? Vedete che soltanto il 12,5 ha un'idea corretta di quanti effettivamente sono gli stranieri, gli immigrati nel nostro paese. Addirittura vediamo che un 22,3% sottostima il fenomeno, pensa che siano di meno. Un 15,5% non sa nemmeno quanti siano, non lo so, la risposta è proprio non lo so, non saprei rispondere. C'è anche un 16% che li percepisce come superiori rispetto a quanti sono realmente. E allora questo è un dato interessante, quindi a livello europeo, se questa è la percezione, ma a livello europeo che cosa ci dicono però? Indipendentemente dal loro numero, gli immigrati sono quanti? Il 55,4% dei giovani europei afferma che sono comunque troppi, indipendentemente da quanti ne percepisco, sono troppi. E se questo è il dato europeo, questo è un dato che non mi piace, perché il 70% dei giovani italiani ritiene che gli immigrati siano troppi. Allora, avete visto che in Italia il fenomeno è sottostimato, c'è molta confusione, però comunque il 70%, a prescindere, non lo so quanti sono, mi sembra che siano così, però sono troppi. Questo è un dato che deve comunque farci riflettere. e nelle loro percezioni quali sono i motivi per cui gli immigrati, dell'immigrazione in Europa, secondo i nostri giovani italiani, vedete che il 44,2% afferma che scappano dalle guerre, un 21,3% scappano dalla povertà e c'è un 12,9% che afferma che l'immigrazione è prevalentemente economica. Cioè vuol dire che queste persone vengono per trovare una condizione, per migliorare la propria condizione economica, quindi per trovare lavoro, e quindi questo capite che si lega in qualche maniera a quell'immaginario per cui insomma sono persone che vengono a sottrarre poi le possibilità anche appunto ai giovani. Ma è una percentuale minoritaria. I motivi della scelta dell'Italia come paese di accoglienza? Questo è un dato interessante, perché chiaramente c'è facilità di ingresso, una prossimità geografica, è un ponte per raggiungere altre mete, ma attenzione, i giovani non sono stupidi, c'è un 4,3% che ritiene per facilità di trovare lavoro, quindi hanno ben chiaro quali sono le condizioni del nostro paese. In Italia lavoro non c'è, quindi è chiaro che probabilmente se vengono qua non vengono perché pensano di trovare chissà quali tipi di lavoro, vengono perché per quegli altri tipi di ragioni. Vado rapidissimamente su questo aspetto. Quindi i nostri giovani europei nei confronti dei non national, quindi degli stranieri, che atteggiamento hanno? Vedete, c'è un'alta diffidenza e un'alta ostilità. Abbiamo un 42% che si definisce diffidente e un 15% ostile. Ma gli italiani? Gli italiani nei confronti degli stranieri sono ugualmente diffidenti, 39,7% diffidenti, ma è interessante che c'è una percentuale leggermente più alta di coloro che hanno un atteggiamento amichevole, un 23,6. Ma guardiamo un attimo, secondo i nostri giovani, i migranti che atteggiamento hanno nel paese ospitante, nei confronti del paese ospitante, ovvero dell'Italia? Vedete che è interessante che secondo loro anche gli stranieri nei confronti del paese ospitante hanno un atteggiamento di diffidenza, di ostilità e sono poco amichevoli. Quindi sembra esserci nelle loro rappresentazioni una sorta di diffidenza e ostilità reciproca, probabilmente dovuta anche alla vulnerabilità che stanno vivendo e anche a forse una mancanza di incontri reali di conoscenza. Perché la presenza degli immigrati crea problemi, sì, li crea secondo i nostri giovani italiani, crea criminalità diffusa per il 48,3%, ma anche lavoro nero. Per quanto riguarda il terrorismo, che è un dato che pensavamo fosse più alto, non è molto alto, quindi non li percepiscono tanto legati a quella problematica. Ultimo dato sull'immigrazione, mi sembra interessante perché comunque c'è ostilità, c'è diffidenza, però di fronte agli ultimi, di fronte all'emergenza sbarchi, qui ci riferiamo proprio, eravamo in piena emergenza sbarchi 2015, allora di fronte agli ultimi, gli ultimi si dichiarano comunque accoglienti. I nostri giovani sono il 64% si dichiara in qualche maniera accogliente. Il 24% ci dovremmo comunque accogliere tutti gli immigrati, il 40% dovremmo accogliere solo i profughi. Certo, un 30% dichiara dovremmo rimpatriare tutti, c'è anche questo. Ma la questione dell'immigrazione è una questione, come appunto accennava già prima il professor Bueri, riguarda anche i nostri giovani. I nostri giovani sono una generazione cresciuta con il paradigma dell'euromobilità e questa è una novità rispetto alle altre generazioni, quindi generazioni che utilizzano i voli low cost, che parlano l'inglese meglio dell'italiano a volte, lo dico perché correggo i testi scritti in italiano dei miei studenti e a volte lo scrivono in italiano un po', chi è insegnante qua lo può confermare. E generazione Erasmus, quindi anche questo programma ha portato chiaramente a una testa diversa, una testa comunque che è capace di muoversi a livello europeo con grande facilità. Tuttavia ci sono anche degli elementi di criticità, questi sono i risultati che abbiamo trovato. Il 43% ritiene purtroppo che l'immigrazione sia l'unica opportunità di realizzazione e questo non va bene perché la mobilità deve essere una mobilità andata e ritorno, non soltanto andata. Quando la mobilità è andata e ritorno è positiva, se è soltanto andata non è scelta ma è l'ultima possibilità, l'unica possibilità che vengono per avere un qualche tipo di futuro. Il 75,6% concorda sul fatto che le opportunità offerte dal paese sono peggiori rispetto a quelle degli altri paesi sviluppati. È una generazione stanca, una generazione sfibrata, sono giovani ma sono comunque sfiduciati nei confronti delle istituzioni e di quello che si sta facendo nei loro confronti, poco a mio avviso. E quindi sono disponibili a emigrare. Vedete che disponibilità a trasferirsi stabilmente per lavoro, non sto parlando di un lavoretto, di andarsene, stabilirsi definitivamente per lavoro, il 61,1% dice sì, mi stabilirei all'estero definitivamente. Un 16% dice no, voglio resistere, voglio restare in Italia, costi quel che costi. Questo è un dato interessante perché ci fa vedere nei fatti quanto sono mobili. Vedete, l'Italia nel confronto con gli altri paesi europei, in Italia i nostri giovani hanno una mobilità superiore rispetto agli altri paesi europei. Vedete che la percentuale di giovani che se ne sono andati all'estero per studio e per lavoro, in Italia sono il 20,4% se ne sono andati per studio e l'11% per lavoro. Sono più simili a noi i cugini spagnoli, ma se noi guardiamo le differenze, ad esempio, con la Germania sono significative. Vedete quanto i giovani se ne vanno molto meno, magari per studio, ma anche per lavoro. Quindi noi siamo, i nostri giovani sono una generazione mobile, euro mobile. Questa è la cosa che mi sento di dire. E dove se ne vanno i nostri giovani? Questi sono i risultati, se ne vanno prevalentemente nel Regno Unito, prima si parlava di lavare i piatti a Londra e questo dato comunque torna, se ne vanno in Spagna, se ne vanno poco in Francia, se ne vanno il 7,7% in Germania. Bene, allora se ne vanno, e questo già è grave, prima il professor Guerri parlava del capitale umano, noi perdiamo capitale umano, perdiamo tutta quella creatività, quell'innovazione di cui il nostro paese ha così tanto bisogno. Ma un altro problema correlato, ho cambiato cartina, quindi attenzione, qui non sono soltanto chi se ne va, ma chi riusciamo ad attrarre realmente? Vedete come l'Italia non sia un paese attrattivo? Quindi se noi parliamo di persone che vengono qua, di capitale umano che viene qua, di giovani che vengono qua, sto parlando di giovani che vengono qua per studiare, e per lavorare abbiamo delle percentuali molto basse. Siamo abbastanza amati dagli spagnoli, ma poco amati da tutto il resto. Questa è una generazione che ha delle caratteristiche quindi di vulnerabilità, ma è una generazione che ha anche tante, tante caratteristiche importanti di resilienza. Rispetto al lavoro direi che non sono si sta verificando una questione interessante. Prima vedevamo i numeri della disoccupazione e non ne parlo perché l'avete già visti. Ma se noi chiediamo ai nostri giovani, abbiamo chiesto quali sono i lavori verso quali sentite un interesse positivo, e qua da questo risultato viene fuori un cambiamento significativo che probabilmente non lo so, 20 anni fa non era così, perché comunque adesso i giovani che cosa vogliono fare, che cosa aspirano a fare? A tornare a fare quelle professioni in cui hanno le garanzie, quindi a tornare a essere impiegati nel settore pubblico, ad essere impiegati di banca. Abbiamo passato degli anni in cui scherzavamo sull'impiegato delle poste, no? Sull'insegnante. Adesso i giovani tornano a fare i grandi concorsi per gli insegnanti, i grandi concorsi per le poste, i grandi concorsi quando ci sono. E perché tornano a fare quelle cose lì e non mi interessa più tanto loro fare il dentista piuttosto che il medico, quelle professioni che sembravano essere ambite tanti anni fa. Probabilmente per quello che diceva il professor Guerri, devo studiare quanti anni? 15 anni? Non lo so se riesco a mettermi in questo percorso. Allora, provo e non so che tipo di percorso sarà, che frutti mi darà. Andiamo sulla certezza, sulle certezze più piccole ma certe. Quindi torniamo insomma a quei modelli del passato. È come se un po' il modello del ragionier Fantozzi, che tanto abbiamo, come dire, su cui abbiamo ironizzato, avesse in qualche maniera battuto il dottor House, che sembrava essere insomma il modello di riferimento per i giovani qualche anno fa. Questo è un esercizio proiettivo che ci rende l'idea di chi sono i nostri giovani. Vedete che abbiamo chiesto: se un tuo amico ricevesse delle proposte di lavoro economicamente equivalenti, stesso stipendio, quale dei seguenti lavori gli consiglieresti di svolgere se ti chiedesse un parere? I nostri giovani non consiglierebbero mai a una persona di fare il telefonista in un call center o un distributore di volantini porta a porta. Sono i lavori nei quali più spesso purtroppo sono impegnati e fanno benissimo quando siano lavori indecenti. Okay? Quindi non li consiglierebbero mai a una persona. Fattori principali che determinano il successo professionale. È interessante questa cosa, prima si parlava un po' di meritocrazia, rete di contatti, chiamiamola un po' così. Però attenzione, perché i nostri giovani, è vero che la rete dei contatti resta comunque importante, chi ha una rete di un capitale relazionale, un capitale sociale su cui può fare riferimento è chiaramente avvantaggiato. Ma è interessante come loro vedono importante per avere successo professionale questa capacità relazionale, le capacità, come dicevo prima, di fare le cose insieme agli altri, di condividere, di lavorare in gruppo, perché probabilmente da soli si va poco lontano e questo l'hanno capito. Sono schizzinosi i nostri giovani? No, non lo sono. Guardiamo alcuni dati velocissimi, il 47% si adegua a una retribuzione insoddisfacente, vuol dire che non stanno a casa sul divano, vanno, lavorano e si adeguano. Okay. Il 46,5% si adatta a svolgere un'attività non pienamente coerente con il proprio percorso di studi. Quindi è vero, il professor Guerri diceva sì, dobbiamo continuare a studiare all'università perché comunque sul lungo periodo, e è vero, lo confermo, chi ha un titolo di studio elevato ha possibilità comunque di avere un lavoro decente, chi ha un titolo di studio basso rimane comunque basso e non si eleva. Però comunque è anche vero che molti laureati si impattano con un mondo del lavoro in cui la professione che possono fare è il call center, il centralinista. Comunque sia, vale la pena continuare a studiare. E comunque vanno a lavorare e fanno quello. Non rifuggono lavori manuali, attenzione, prima si parlava dell'immigrazione, dei lavori manuali, di badanti, quant'altro. I nostri giovani stanno anche prendendo in considerazione tutta quella fetta di lavori che sembravano lavori di serie B, posso dirlo? E invece no, i mestieri di cura possono essere dei mestieri, se pagati onestamente. Allora, questo mi sembra comunque interessante. La stragrande maggioranza, siamo al 90%, è convinta che la propria generazione si trovi con molte meno opportunità rispetto alle precedenti. Allora, attenzione, questo l'hanno molto chiaro, di essere comunque una generazione svantaggiata rispetto a tutti quelli che sono passati prima di loro. Quindi questo deve fare attenzione a non far scattare un conflitto generazionale, che può sempre scattare, ma provare a creare delle alleanze. Salario atteso dai giovani italiani, dove si parlava di salario. Vediamo che cosa pensano loro. Salario che un giovane dovrebbe arrivare a percepire. Beh, sono ancora abbastanza ottimisti. Dicono, vabbè, sì, più o meno a 35 anni un giovane dovrebbe arrivare a percepire il 38%, ma tra 1.500 euro e 2.000 euro. Guardate però la risposta sotto. Salario che un giovane pensa riuscirà ragionevolmente a percepire. Allora, vedete che tra dire e fare, quindi poi dire, beh sì, teoricamente così, però io, oggettivamente, realisticamente, dove potrò arrivare? E allora lì c'è una caduta delle aspettative, il 15,5% dirà a 35 anni guadagnerò meno di 1.000 euro al mese. Questo è nelle loro rappresentazioni. Come si informano i nostri giovani? Si informano e hanno delle idee politiche, e si informano attraverso i canali quelli che conoscono meglio, quindi la rete in prevalenza, quotidiani online, siti informativi, ma la sfera del cartaceo sembra comunque essere ormai in disuso tra i giovani, non da ultimo anche per una questione economica, e quindi questo è il modo con cui si informano. E atteggiamenti nei confronti della politica, queste sono altre questioni importanti di cui guardiamo rapidissimamente. Gli atteggiamenti nei confronti della politica non sono molto positivi. Vedete che un 28,9% dice mi disgusta. Okay, ma, e questo è molto legato anche alla disaffezione nei confronti delle istituzioni. Mi considero politicamente impegnato, quindi potremmo dire che in Italia soltanto un 4,8% dei giovani tra i 18 e i 32 anni si dichiara politicamente impegnato. C'è anche una quota significativa di persone, tuttavia, che dichiara di tenersi al corrente, quindi quantomeno ti informo, però poi può sfociare o nell'impegno, un contributo positivo per migliorarlo, oppure nella non partecipazione. Effettivamente, che tipo di impegno hanno? Ai giovani non possiamo chiedere di frequentare una sede di un partito, non glielo possiamo più chiedere perché i giovani non sono più interessati a quella forma di partecipazione politica. Ai giovani non possiamo chiedere di essere iscritto a un partito, ai giovani forse ancora non possiamo chiedere di rivestire incarichi, di ricoprire delle cariche. In questo momento loro non interessa questo. Ma quello che fanno mediamente è discutere con le persone che conoscono. Discutere con persone che la pensano anche diversamente da se stessi e avere un tipo di partecipazione innovativa diversa e tutte quelle forme di partecipazione che si hanno in rete, quindi partecipare a gruppi online, a dei blog, alle proteste online. Quindi questa è la forma di partecipazione politica tipica tra giovani. Anche qui, se noi parliamo di impegno politico, dobbiamo capire che se pensiamo ai giovani, questo può essere un impegno politico per loro. Da quella strada dobbiamo riprenderli, non possiamo ragionare ancora con le vecchie categorie che hanno caratterizzato le precedenti generazioni. Questa è una affermazione importante. L'88,2% dei millennials è molto abbastanza d'accordo con la seguente affermazione. Detto le cose che ho appena detto, le nuove tecnologie implementano nuovi processi e nuove occasioni di partecipazione, ma alla fine le decisioni che contano passano sempre attraverso i vecchi canali. Okay? Quindi è vero che partecipano in forma nuova attraverso la rete, però sono anche consapevoli che alla fine partecipano, ma poi le decisioni, quelle che contano, che incidono anche sulle loro vite, non passano attraverso quei canali che utilizzano, passano in altre sedi in cui non ci sono. Allora, rispetto alla partecipazione, invece, come sono con i tempi? Quanto ne ho ancora? Altri 10 minuti, ce la posso fare. Rispetto all'impegno invece sociale, vi dico questo, che come vedevamo prima nella piramide iniziale, si sposa con l'impegno politico. Quindi comunque abbiamo oltre l'80% che non fa parte di associazioni o di gruppi organizzati. Abbiamo anche un 64,6% che non ha mai fatto alcun tipo di esperienza di volontariato. E sono numeri significativi. Cioè, pensare che tra i giovani di questa età oltre il 60% non abbia mai avuto un'occasione di fare volontariato, mi chiedo come questo possa accadere. Nel senso, non mi chiedo la colpa, ma come mai non sono venuta a contatto con questa realtà o non sono interessata a questi mondi. E su questo potremo ancora continuare a lavorare, sarebbe significativo perché c'è bisogno. Rispetto all'impegno, uno scossone è arrivato dal Servizio Civile Universale. Allora, lo scorso anno abbiamo fatto proprio aggiunto nel questionario questa domanda, con questa frase: il Servizio Civile Universale a partire dal 2015 darà l'opportunità a circa 100 milioni di giovani, cioè 100.000, scusate, giovani italiani e stranieri da 18 a 28 anni, di prestare servizio al fine di tutelare il patrimonio culturale e geologico del nostro paese. Le aree di intervento sono le seguenti: protezione civile, assistenza, ambiente, patrimonio artistico e culturale, servizio civile all'estero. L'abbiamo scritto nel questionario perché parecchi non lo sapevano, a me sembra scontato, quindi quando noi parliamo di servizio civile universale, di che stiamo parlando? È questa cosa qua, ragazzi. I volontari riceveranno 433 euro al mese per una durata minima di 8 mesi, prorogabile 12 mesi. Vediamo che cosa hanno risposto. Che cosa rappresenta innanzitutto per loro questa possibilità? Quanto è importante per far che cosa? Io credo che il dato più significativo è questo, che partecipare a un'esperienza di questo tipo per loro ha un valore fondamentalmente di stimolare la cittadinanza attiva. Mentre, se vedete, avere una remunerazione non è un motivo, non è il valore più importante, probabilmente. Uno, perché comunque chiaramente il riconoscimento economico è minimo, però comunque è importante per la loro età. Però quello che li mette in un percorso di partecipazione e di impegno e riconoscono uno stimolo per la cittadinanza attiva. Lo faresti? Vedete che comunque la risposta è positiva. È interessante come ci siano delle differenze territoriali, quindi è un'esperienza che viene percepita come positiva e attraente soprattutto per i giovani del sud. Probabilmente, vi dico, è anche un modo per tenersi impegnati. Laddove si hanno meno possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o anche di fare dei percorsi di formazione qualificati, forse questo può essere un modo comunque per per non far niente, per non cadere in quella grande fetta di NEET che sappiamo essere una fetta pericolosissima. Sono quei giovani in Italia che non fanno niente, non studiano e non lavorano. Sappiamo che in Italia sono il 26%, siamo i primi in Europa, quindi siamo anche in questo caso, il professor Guerri non l'ha detto, ma siamo messi male anche da questo punto di vista. Quindi piuttosto non state a casa, ma fate qualunque cosa. Questo può essere un modo, un tampone, un modo per creare capitale sociale, creare reti, perché uno può fare un'esperienza di questo tipo e conosce, e fa esperienza, conosce dei mondi che non immaginava, quindi comunque è bene comunque anche questa strada. Lo consiglieresti a un amico? Sì, perché no, non ha controindicazioni. Concludo con la fede, perché è un tema comunque penso importante anche in questa sede, e su questo tema noi abbiamo fatto un approfondimento qualitativo molto, molto bello, quindi questo è un dato quantitativo e poi vi parlo dell'approfondimento qualitativo in 3 minuti. Allora, lei crede a qualche tipo di religione o credo filosofico? Vedete che tra i millennials il 55,9% afferma sì alla religione cristiana cattolica. È un dato, è più della maggioranza, però è un dato in calo, perché se noi guardiamo i dati comunque di 20 anni, 30 anni fa, avevamo percentuali molto più alte. Abbiamo un 15,2% che afferma no, non credo a nessuna religione o filosofia trascendente. Il 10,1% si crede a un'entità superiore ma senza fare riferimento a nessuna religione. Questo è il quadro della credenza dei nostri giovani. E questo uomo interviene in maniera forte nella costruzione dei percorsi di fede dei nostri giovani. Abbiamo chiesto come viene percepito Papa Francesco dai giovani. È una persona che piace soprattutto per le sue grandi capacità comunicative, è il primo dato che emerge in assoluto. Ma piace anche per i suoi nodi di attenzione, che sono quali? Sono l'attenzione ai poveri, agli ultimi, ai problemi sociali e anche alla pace. Sono tutti nodi, la povertà, i problemi sociali, la pace, che ai giovani comunque stanno fortemente a cuore. E allora abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto un approfondimento qualitativo. Abbiamo fatto un approfondimento qualitativo andando non tanto a somministrare questionari che ci danno questi dati importanti, perché ci consente di fotografare quantitativamente un fenomeno, ma andiamo a parlare veramente con i giovani, con interviste qualitative in profondità. E da queste interviste viene fuori questo grafico mostruoso, di cui mi scuso, che è contenuto dentro il libro che è curato dalla professoressa Rita Viti e Paola Mignardi, che si chiama Dio a modo mio, edito da Vita e Pensiero, non è una pubblicità, ma è per dire che comunque c'è anche un esito concreto che si può comunque andare a vedere. E ho letto tutte le 150 storie, parecchie ne ho raccolte anch'io, le ho stampate tutte, le ho messe sul tavolo e ho provato a dire vediamo un po' che tipi di percorsi di fede hanno i nostri giovani. Dico che questi giovani che abbiamo intervistato erano tutti battezzati, unico criterio di selezione che abbiamo utilizzato. Sono giovani di tutta Italia, con un campione comunque per dimensioni, qui abbiamo sia giovani del nord, del centro, del sud, grandi paesi, piccoli paesi, ma abbiamo cercato di fare comunque quanto più mantenere più varianza possibile del nostro campione. Non è un campione rappresentativo, certo. E viene fuori questa cosa qua, che i corsi di vita dei nostri giovani hanno avuto comunque nella maggioranza un'iniziazione cattolica alla fede, quindi con i vari sacramenti, hanno il battesimo, la comunione e la cresima. Ma che cosa è successo alla maggioranza dei nostri giovani? Che a un certo punto della loro vita, in concomitanza con la preadolescenza solitamente, hanno avuto un allontanamento dalla fede e dai luoghi formali della fede. Un allontanamento, una latenza che si protrae nel tempo, negli anni, e sembra verificarsi un ritorno, un reinteresse alla propria fede e alla Chiesa in un'età successiva, quando fanno il grande salto nell'età adulta, ovvero siamo alla fine, intorno ai 27-29 anni. Questo salto può essere fatto per tante ragioni, ad esempio, non so, quando mettono su famiglia banalmente, i loro figli li riporta a rifrequentare i luoghi, a rifrequentare la chiesa, la domenica, la messa, cosa che magari per tanti anni non hanno fatto. Quindi posso dire questo, che il percorso di fede standard più ricorrente tra i giovani oggi è un percorso in cui c'è un distacco fisiologico a un certo punto dalla fede, ma che ha un ritorno altrettanto fisiologico più avanti negli anni. Io ho definito i giovani oggi in Italia, da un punto di vista della fede, come cattolici in ricerca. Ci sono tanti altri tipi di distacchi che si possono verificare poi nei percorsi di fede. ad esempio ci possono essere distacchi intellettuali, sono quei giovani che a un certo punto della loro vita cominciano a farsi un sacco di domande e allora mettono in crisi tutto quanto, anche le loro credenze. In questo caso si definiscono critici ricerca gnostici. Il riavvicinamento in questo caso è possibile, ma non è sempre ricercato. Abbiamo poi questo gruppo di persone che, se noi guardiamo, se guardiamo i colori che ho utilizzato e pensiamo ai codici sanitari, siamo qua in un codice giallo. Sono abbastanza preoccupata, perché, mentre prima eravamo in codice verde, perché sono quei giovani che non hanno avuto, si parla di generazioni, una restituzione. È vero che hanno fatto un battesimo, è vero che hanno fatto un catechismo, non tutti però, perché alcuni di questi giovani che hanno fatto il battesimo, poi dopo il battesimo hanno fatto la comunione, alcuni si sono fermati lì. Ho intervistato un ragazzo che mi dice: guardi, io ho fatto il battesimo, ho fatto la comunione, poi la cresima non l'ho fatta. Non l'ho fatta non perché non la volevo farla, ma perché nessuno mi ha detto che dovevo farla. Mio padre, mia madre non mi hanno detto che dovevo farla. È una mancanza di restituzione, un inceppamento, una frattura nella trasmissione anche della fede. Che fine faranno questi giovani? Se non hanno avuto una trasmissione forte della fede, che cosa potranno trasmettere a loro volta ai loro figli? Mi chiedo e vi dico. Sono anche i percorsi, siamo alla fine, in cui la rottura è traumatica, in cui nella loro vita è successo qualcosa, un evento molto spiacevole, che a un certo punto dice: basta, ho chiuso con la fede, ho chiuso con la Chiesa, non ne voglio sapere più niente. Possono essere dei grandi traumi, la perdita di una persona molto cara. Una ragazza mi dice: come è possibile che Dio esiste? Se veramente esistesse, non avrebbe consentito che mia madre fosse morta quando avevo 4 anni. Allora, di fronte alla dichiarazione di questo tipo, non possiamo che rispettarla e augurarci che abbia il tempo poi per maturare delle nuove consapevolezze. Ci sono anche le mosche bianche, ci sono i cattolici convinti, sono quel gruppo minoritario di giovani oggi che hanno dei percorsi di fede lineari, in cui sono cresciuti negli ambienti cattolici, frequentano, continuano a frequentare, non hanno avuto delle interruzioni significative. Oggi in Italia sono un gruppo minoritario, ma comunque sono un gruppo importante. E in qualche maniera sono il gruppo minoritario oggi che erano il gruppo standard 20 anni fa, 30 anni fa. Quindi quello che oggi è minoritario era standard qualche anno fa. Concludo con questo dato. Allora io mi chiedo: i nostri giovani sono felici o no? Perché abbiamo visto tutte le difficoltà che hanno, non hanno lavoro, disoccupati, fragilità, la famiglia. Come si percepiscono tutto sommato? Ho iniziato dicendo che comunque è positivo che abbiano ancora voglia di divertirsi. Questo ho detto, perché è meglio divertirsi che essere in depressione, a mio avviso. Quanto ti ritieni felice? Vediamo che il 72% si dichiara comunque abbastanza molto felice, nonostante tutto. E se noi guardiamo dentro questa grande fetta, vediamo che quelli che sono più felici sono gli studenti lavoratori. E questo è interessante. Vuol dire che sono quei ragazzi che è vero che studiano, si danno da fare, scelgono di andare avanti, fare l'università, ma allo stesso tempo capiscono che i tempi sono cambiati, che mamma e papà sono in difficoltà e quindi trovano il lavoretto, entrano nel mondo del lavoro, ma portano avanti a fatica tutto quanto e questo li fa essere felici. I meno felici chi sono? Sono i NEET, sono quelli che stanno sul divano e non riescono a trovare la forza per alzarsi, non è colpa loro, andrebbero aiutati, su questo stiamo lavorando anche a livello di politiche. Quindi il loro futuro com'è? L'abbiamo chiesto a loro, è caldo o freddo? È caldo, sono le loro risposte. È aperto o chiuso? Aperto. È morbido o ruvido? È ruvido. È chiaro o vago? È vago. È certo o incerto? È incerto, è vicino o lontano? È vicino, è stimolante o piatto? È stimolante, è bianco o nero? Meno male direi è bianco, e lo diciamo appunto, una ragazza dice è bianco, è ancora tutto da scrivere. Quindi credo che questa sia un po' la bellezza dell'essere giovane ancora, nonostante tutto, insomma, io mi auguro insomma che trovino la forza. Grazie. Era Cristina Pasqualini, ricercatrice, che ha commentato alcuni dati del rapporto Giovani 2016 redatto dall'Istituto Toniolo di Milano. Pasqualini intervenuta a Open Field 2016, il convegno promosso dalla FISP e dalle principali aggregazioni laicali della Diocesi di Padova, che si è svolto lo scorso 26 di novembre nell'Aula Magna della Facoltà Teologica del Triveneto. Prima dell'intervento di Cristina Pasqualini abbiamo sentito quello di Tito Boeri, presidente dell'INPS, proprio su questo tema, anche molto terra-terra, molto monetario ed economico, delle differenze, dei differenziali tra generazioni in Italia e anche non necessariamente troppo distanti nell'età. Il nostro spazio di eventi e incontri tornerà anche lunedì prossimo e martedì sempre alle ore 21. Inizieremo con il mese di febbraio a proporvi quattro incontri dedicati a Evangeli Gaudium, incontri che sono svolti in due zone della diocesi, nel mese di ottobre e poi nel mese di novembre, appunto per sviluppare i temi di questo altrettanto importante documento di Papa Francesco. Di Daici Regia, Mirko Cavallin in studio, grazie per l'attenzione e buona serata.